Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Buonasera. Buonasera, buonasera e bentornati a questa nuova trasmissione super estiva di Mighty FM. Chi vi parla è sempre Claudia Mighty Mau dagli studi roventi di Radio Kairos a Bologna, dove ci siamo praticamente solo noi e le cicale, ma siamo qui per parlare di un evento che abbiamo scoperto di prima mano l'anno scorso, ovvero il Toe Days Festival, ultimo weekend di agosto 24, 25 e 26. Abbiamo fatto un'intervista telefonica con il suo creatore e direttore artistico. Siamo ascoltiamo al la prima Gianluca parte. Gozzi. Ciao Gianluca. Ciao. Direttore artistico e creatore infaticabile di situazioni musicali culturali nella vivacissima Torino, perlomeno vista qui da Bologna. Io e i miei amici diciamo sempre che se non stessimo qui a Bologna, rimanendo in Italia, Torino sarebbe una valida alternativa. Come vedi tu la vita culturale della tua città dall'interno? Ma sai come funziona, chi è sempre il protagonista dall'interno a volte patisce un po', perché come dire, ci piacerebbe che le potenzialità potessero diventare effettivamente tutte quante espressioni reali, quindi si trasformassero in azioni. Sicuramente Torino, ma come tanti luoghi in città, sono spazi ricchi di una creatività e un fermento che, anche se caotico, rappresenta veramente un po' l'anima, nel nostro caso l'anima più popolare della città, dove nascono i collettivi artistici che vanno dalla musica alle arti grafiche, visionarie, e dove quindi è bello pensare ci siano dei momenti, in questo caso un festival piuttosto che altre iniziative, che in qualche maniera ancora prima di valorizzare riconoscono questo fermento artistico e possono appunto trasformare la potenza in atto. Quindi questa è un po' la nostra intenzione. Sicuramente Torino è una città che anche negli anni precedenti, nei decenni precedenti, ha vissuto queste stagioni. Ultimamente, vista dall'interno, sembra un po' addormentatella, però insomma ci sono sempre come dire, eccellenze che quantomeno provano, movimentate dalla passione, dal cuore, a fare delle cose con spontaneità. E tu appunto sei stato sempre molto attivo come organizzatore, gestore di spazi, appunto a partire dallo spazio 211, poi al Bla Bla, dove io sono venuta solo una volta a vedere i Lower Dance, e adesso quest'area, appunto spazio 211 in via Cigna, è un po' rivitalizzato con il Today's Festival, un quartiere, cioè questa interazione forte con il quartiere Barriera di Torino, per chi non lo conosce, insomma la parte nord della città, anche appunto avendo accesso a delle aree deindustrializzate che appunto un po' in tutta la città poi sono state convertite a progetti culturali. Qual è quindi l'interazione con le realtà creative del quartiere, ma anche con la stessa popolazione? Sì, beh, tu hai usato, guarda, proprio la parola giusta, cioè rivitalizzante. Today's stesso è proprio un omaggio rivitalizzante a quell'idea di periferia, che è in tante cose, nell'ambito musicale, insomma, quelle musiche, come dire, di confine, periferiche, che vogliono essere riportate al centro, che magari in questo momento nel mondo, in Italia in particolare, orbitano un po' ai margini del radar musicale, piuttosto che invece ai luoghi fisici, che non sono soltanto dei contenitori, come dire, passivi, che accolgono uno spettacolo fatto di concerto, cambio palco, concerto successivo, ma diventano, come dire, risuonatori, riverberatori dei suoni, quindi essi stessi protagonisti. Per questo dalla prima edizione Today's è stato un festival che ha puntato molto sui luoghi, luoghi rivitalizzati appunto e rigenerati, quindi ex fabbriche di inizio Novecento, che però rappresentano una fotografia di quello che è in questo momento, cioè non ci interessa fare un'operazione di revival e pensare, guardare cosa succedeva nel passato, ma far notare che ad esempio in un'area come i Dock Store, i magazzini ferroviari di inizio Novecento, in questo momento ci sono laboratori di architetti visionari, gruppi musicali che provano per suonare poi al Primavera ospiti, piuttosto che studi di registrazioni o tante altre realtà. E questo è un po' il festival, quindi sull'asse nord della città, come tutta la fiera periferia della barriera di Milano, quindi comoda l'arrivo anche dall'autostrada e da altre città, si svolge il festival che per 3 giorni permette di utilizzare, insomma, come nei veri festival in Europa, più palchi, sono 6-7 palchi, distanti 5 minuti a piedi uno dall'altro, quindi in qualche maniera anche attenti un po' ai consumi e all'ecosostenibilità di un festival, e vivendo emozioni dal primo pomeriggio a notte fonda, passando dal Prato Verde in spazio 111 a un'ex fabbrica come la Incet, quindi con architetture di inizio secolo, piuttosto che un parco ecosostenibile come il Beccelli, bellissimo, le vie d'arte, e soprattutto, permettimi, di anche suggerendo alle amministrazioni locali degli utilizzi diversi di questi luoghi che vanno oltre i 3 giorni di un semplice festival. Assolutamente. Infatti, appunto, volevo parlare anche della sezione molto interessante, appunto, a parte la musica suonata, dei Toolab, che coinvolgono appunto delle realtà creative che hanno trovato la loro sede nel quartiere. Come abbiamo detto, sono workshop, presentazioni di libri, installazioni, panel, discussioni, eccetera. C'è un comitato, diciamo, scientifico che cura questi incontri? Come viene la selezione? C'è un bando di partecipazione? Sono contatti personali? Sì, guarda, Toolab in realtà è un festival nel festival, quindi, come abbiamo detto prima, un festival non è soltanto un momento di puro, come dire, intrattenimento fino a se stesso, del semplice concerto, ma un'immersione in qualcosa che difficilmente nel quotidiano la si ritrova, e questo vuol dire arte a 360 gradi, sia per chi la musica la fa, ma anche per chi la vive diversamente. Toolab è un progetto che dalla prima edizione del festival, ormai nel 2015, all'interno della galleria Gagliardi & Dompte, che si trova proprio sull'asse, come dicevamo prima, dell'asse nord, piuttosto che in altre sedi, gli Arca Studios all'interno dei magazzini Drugstore, durante questi 3 giorni come dire, colleziona una serie di appuntamenti. In particolare quest'anno il tema è quello della realtà virtuale, della dimensione 3D e dell'affrontare sotto vari punti di vista il tema della musica, come si faceva un tempo nel passato, veramente passato, come si fa oggi e come suonerà la musica del futuro, quindi attraverso anche tutte le tecnologie, l'innovazione, insomma, tu pensi che oggi si riproducono in digitale, quindi col computer suoni che magari una volta erano suoni tribali, che quindi hanno una tradizione completamente diversa. E tutto un susseguirsi di appuntamenti che si possono anche visionare sul sito todaysfestival.com, l'ingresso gratuito per le persone. Come hai detto te, si va dai workshop che approfondiscono anche in maniera molto professionale, imparando la connessione tra il suono e il visual, l'arte video, piuttosto che tanti appuntamenti fino alla presentazione di libri o anche luci. Avremo degli ospiti, Max Collini degli Exoflagellisco Bax, piuttosto che Popper o Walkie Talkie, che insomma in qualche maniera ripropongono la loro arte, ma contestualizzata proprio in maniera interattiva con il pubblico. Non c'è un comitato scientifico vero e proprio, ma, come dire, un'unione di tante energie che contribuiscono a creare un vero e proprio cartellone fatto di tanti appuntamenti che, per chi vuol vivere il festival dal primo pomeriggio, sono altrettanto significativi e importanti rispetto ai concerti poi main. E questa era la prima parte di 3 dell'intervista con Gianluca Gozzi, e seguendo religiosamente il programma partiamo, ma dopo, come appunto è stato detto, la programmazione ufficiale con i Toolab e gli incontri inizia dal primo pomeriggio del venerdì 24 agosto, ma la musica suonata nello spazio 211 di Via Cigna inizia alle 19 con una band italiana, sono gli Indianizer. We'll be right back. dicevamo, gli Indianizer è una band torinese e abbiamo deciso in alcuni casi, in molti casi, in questa trasmissione, invece di ascoltare due pezzi di seguito, invece di fare tutto il giro e ricominciare da capo, di alcuni ascolteremo due pezzi e di alcuni uno. E nel caso di Indianizer, essendo una nuova realtà che abbiamo quindi scoperto grazie a questa trasmissione sui Today's Festival, abbiamo sentito Don, a cui adesso sta seguendo un altro pezzo che si chiama Bidonville, del loro album di quest'anno che si chiama Zenith, dopo aver pubblicato già un altro disco nel 2015, Neon Hawaii, Indianizer. Indianizer, un gruppo di genere psichedelico ma anche latin, ispirati nella loro musica da Animal Collective e Django Django. Come dicevamo, gli appuntamenti iniziano in realtà alla Galleria d'Arte Gagliardi e Dom, che per gli appuntamenti del Tolab potete trovare tutti gli appuntamenti con tutte le descrizioni nella sezione Day by Day, nella sezione Tolab, nei vari luoghi di questo quartiere, quartiere di Torino che si chiama Barriera di Milano. E quindi si parte alle 15 con Io sono la musica che ascolto, un progetto di geolocalizzazione cittadina dei luoghi dove si fa e si ascolta musica, seguito poi da Anni Luce, la presentazione di un libro, poi I cani, i dischi, i bagni nel mare, l'umanità, anche qui presentazione di libro con showcase acustico, poi Oculus Experience, quindi realtà virtuale, realtà aumentata, e poi l'ultimo appuntamento, The Road Not Taken. Non vorremmo coprire troppo la musica per leggere i contenuti di ogni appuntamento, infatti siamo passati alla seconda band che alle 19.30 farà riempire di gente il prato dello spazio 211, ne abbiamo già parlato, li abbiamo già ascoltati nella trasmissione dedicata, in una delle trasmissioni dedicata al Siren Festival, che ci sarà invece il prossimo weekend, non questo, quello del 26, 27, 28. Sono i Bud Spencer Blues Explosion. pezzo che stiamo ascoltando è Dove, ascoltiamo solo uno perché l'altra volta ne abbiamo ascoltati due, entrambi tratti dal disco uscito a marzo, Vivi, Muori, Blues, Ripeti, per questo duo esplosivo, letteralmente, formato da voce e chitarra Adriano Viterbini e batteria Cesare Petulicchio. Per amor di completezza ricordiamo che contemporaneamente nel primo pomeriggio dalle 14 alle 18 ci sono invece i workshop per addetti a lavori o per semplici curiosi, insomma dipende dal loro contenuto, presso gli Arca Studios che, come ci ha detto Gianluca, sono presso i Docks Dora, quindi dietro al Parco Peccei, bellissimo luogo. Dalle 14 Suonare la Luce e poi contemporaneamente Sound and Vision, entrambi seminari di 4 ore, 14-18, dai, aritmetica. E adesso siamo arrivati a un gruppo di pazzi australiani di Sette Elementi. Io ho avuto la possibilità di vederle un paio d'anni fa, credo, al Primavera Sound di Porto. Sono i King Gizzard and the Lizard Wizard. Si sa che gli australiani hanno questo penchant proprio per la musica psichedelica. Il loro sound fonde garage, freak folk, prog, surf, jazz fusion e heavy metal, guidato dal polistrumentista Stu McKenzie. Talmente prolifici che avevano detto che nel 2017 avrebbero pubblicato 5 album e l'hanno fatto, l'ultimo infatti è uscito il 31 dicembre del 2017. Vista una produzione così copiosa, anche di loro abbiamo scelto di ascoltare due pezzi. Questo, il primo, è Crumbling Castle, tratto da Polygondwanaland, Gondwanaland essendo il macro continente che esisteva prima appunto della deriva dei continenti, forse prima della Pangea. Potete trovare tutte le informazioni che volete su Wikipedia. Gruppo famoso per le sue performance, i fan sono veramente fan scatenati, appassionatissimi, come si possono vedere, può vedere tutti i video che si possono trovare in rete. Gruppo nato nel 2010 a Melbourne e non è che prima dei 5 album del 2017 non avessero fatto niente, perché ne avevano già fatti 8, dal 2010 al 2017. Poi la particolarità dell'album da cui stiamo ascoltando questo pezzo, Polygon Dwanaland, è che era stato diffuso come free download a novembre e la band aveva proprio incoraggiato i fan e etichette indipendenti a creare le loro stampe, le loro copie dell'album, dicendo che l'album è free, è gratis, libero, nel senso proprio di libero, libero da scaricare se vuoi, libero di fare delle copie, fare delle cassette, fare dei CD, fare dei dischi, crea la tua etichetta, dai lavoro ai tuoi amici, stampa le copie in vinile, fai pacchetti, spedisci le scatole. Noi non siamo i proprietari di questo disco, ma è per tutti quanti. Enjoy. E adesso tratto dall'album successivo, sempre del 2017, Gumboot Soup, ci ascoltiamo uno dei singoli, All Is Known. È finita la cavalcata psichedelica di King Gizzard and the Lizard Wizard, passiamo ad un'altra band anche famosa per le sue cavalcate, ma più epiche, più proprio americane, più un po' la Springsteen a volte, sono i War on Drugs, che abbiamo già ascoltato l'ultima volta nella trasmissione dedicata a Primavera Sound in Porto. Non ci siamo potuti godere il concerto perché c'era veramente un tempo orribile e una pioggia, e anche quindi l'umore non era dei migliori. Il loro album Deeper Understanding è stato un grandissimo successo, abbiamo ascoltato tra una cosa e un'altra penso almeno 3-4 pezzi dal disco. Adesso ascoltiamo un altro pezzo tratto dal bellissimo e super lodato e acclamato album Deeper Understanding. Il pezzo è uno dei singoli, si chiama Kane. I was staring into the light. War on Drugs, la storia l'abbiamo raccontata tante volte. Gruppo nato nel 2005, all'inizio connubio tra Adam Granduciel, attuale leader e cantante, e Kurt Weill. Dopo le strade si sono separate in buona amicizia. Quattro album dal 2008, e diciamo il successo dall'ambito più alternativo al mainstream, appunto consacrato con la vincita del Grammy Award come miglior album rock di quest'anno, cioè del 2017, Grammy consegnati a gennaio di quest'anno. Adesso cambiamo proprio tutto, sia a livello di geografia, sia a livello di età anagrafica, sia a livello di genere soprattutto. Perché? Perché alla fine dei concerti, insomma un po' a cavallo alla fine dei concerti dello spazio 2011, se si cammina 10 minuti tornando indietro lungo via Cigna, all'altezza di una mega rotonda dove c'è un centro commerciale, c'è l'ex fabbrica Incet, trasformato in questo spazio musicale veramente molto bello e suggestivo. E appunto venerdì sera dalle 23.30 ci saranno appunto una dei nuovi sensazioni della scena alternativa italiana, ovvero i milanesi Coma Cose. L'incedere iniziale di questa canzone mi ha fatto pensare a In alto mare di Loredana Bertè. Un duo nella vita e nella musica, Fausto Lama e Francesca alias California DJ, hanno pubblicato un EP Inverno Ticinese nel 2017. Stiamo ascoltando Anima Lattina, a volte fanno dei giochi di parole veramente molto simpatici. Abbiamo un'anima lattina che beviamo birra, ma poi ancora più successo con il nuovo singolo 2018 Post Concerto, che ci ascoltiamo poi di seguito. Sono gli anni di mio papà, aveva gli occhi tristi e macchina a battisti. Guidare verso Jesolo, le mani sul volante, erano grandi come le zampe di un leone. Parlare, bere birra fino alla mattina, abbiamo un'anima latina, sempre che abbiamo una. Diciamo, questo è il pezzo più convenzionale cantato, non c'è come al solito l'intermezzo invece rappato di Fausto Lama, ma come dicevo questo è l'ultimo singolo Post Concerto. Volevi fulmini e tempesta? Sì. Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo. tanto è tutto ciclico, ogni mattina si riduce a una Sarajevo sulle mie tapparelle che il sole mi traglia di luce. Fame chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle, proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle, io debole come la carne, tu forte come la verdura, ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango nel naviglio gance, se mi taglio una cipolla piange, odio la musica preta per te, canche abbaiano un moroder, quasi inciampo sopra una bottiglia, apro una porta a Genova senza maniglia, abbiamo occhi diversi ma uguali, la mia ragazza è bella come David Bowie, ho ancora voglia di combattere, Garibaldi aveva solo 1000 follower, questa canzone costa solamente 1000 lire, io Spotify, tu Spotify, stima meglio il vinile, la tua testa è un gigantesco centro sociale, e se stanotte mi gira, io la vado ad occupare, io rimango. E i Coma Cose faranno da apripista invece per l'unica data italiana dei Mount Kimby, che noi abbiamo potuto vedere lo scorso novembre al Magnolia di Milano, e in occasione del quale concerto facemmo una delle nostre monografie sul loro bellissimo ultimo album, attesissimo dopo 4 anni, Love What Survives, quindi abbiamo suonato praticamente tutti i pezzi, per cui adesso mettiamo invece un remix, in quanto sono uscite poi 2 release con pezzi remixati di questo album, e il pezzo che ci ascoltiamo è 4 Years, 1 Day, che io ho ipotizzato che fosse appunto il tempo intercorso tra le uscite dei 2 album, nel remix di Gert Jansen, che ha suonato a Primavera ma non siamo rimasti in piedi per ascoltarlo, e volevo approfittare di questo lungo pezzo strumentale per parlare poi di un altro appuntamento, che è appunto a cavallo dalle 19 a mezzanotte in un altro spazio, Plart 2, che è un cantiere, come ci ha detto Gianluca Gozzi, è ancora in costruzione, è la sede torinese di una realtà che invece esiste già a Napoli e ospiterà la collaborazione proprio su commissione, non quindi concerti già fatti ma proprio dei lavori nuovi, una performance site specific si direbbe, dell'etichetta Touch, il nome è Touch Movement, dalle 19, a cui seguirà sempre unica data italiana la performance di Philip Jack, musicista inglese attivo dagli anni 80, nato nel 52. Wikipedia ci dice che è un compositore multimediale, un mago, un dadaista, un coreografo, un uomo dei boschi, non so, un boscaiolo e un tassidermista. E il suo lavoro quindi utilizza dei piatti, dei giradischi vintage e suoni analogici per questa performance, a cui seguirà quella dell'italiano Fabio Perletta. e questo nuovo spazio è stato acquisito, sta venendo creato questo Plartù in uno spazio industriale dismesso sempre lì in via Cigna. Per aprire quindi una sede del Nord, del Centro di Arte, Innovazione e Ricerca Plartù, che utilizzi linguaggi artistici come strumenti capaci di comunicare concetti complessi legati alla cultura dell'ambiente e promuovere il design e l'arte, estendendo il raggio d'azione all'architettura, alla fotografia, alla moda, al lifestyle, insomma la creatività in ogni sua forma. Mentre quest'altra programmazione notturna, che inizia proprio quando finiscono i concerti allo spazio 211, si fa una passeggiata, si svolgono all'ex fabbrica Incet, ne abbiamo parlato l'anno scorso nella trasmissione che dedicammo all'edizione del 2017. Era una fabbrica fondata a fine 800, Incet stava per Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino, quindi insomma fabbricazione di cavi elettrici, e poi invece è diventata una delle principali aziende che sostenevano l'industria automobilistica, quindi diciamo le cosiddette industria dell'indotto. Abbiamo scelto questo remix di Four Years and One Day perché c'è una riconoscibilità del pezzo originale, mentre io personalmente non apprezzo molto quelle riletture che stravolgono proprio il pezzo originale, come per esempio quella fatta da Blue Train Lines, da Nina Kravitz, però se è stata approvata dai suoi creatori, chi siamo noi per criticarle? Ma ovviamente mettiamo i pezzi che ci piacciono di più. The Mount Kimby, duo composto da Dominic Maker, ormai emigrato a Los Angeles, e Kay Campos invece è rimasto in Inghilterra. Abbiamo anche parlato della loro attività come host radiofonici, come spesso fanno gli artisti di musica elettronica come James Blake o George Fitzgerald. A seguire alle 2, per questa programmazione che finisce alle 4 di notte, sono molto contenta, l'ho anche nominata nell'intervista a Gianluca Gozzi, c'è la tedesca Lena Willikens, che abbiamo già potuto conoscere qualche anno fa come ospite del Robot. Non ha fatto grandi produzioni, ma ha delle serate fisse, ovviamente come tutti i grandi DJ, in dei club come il Salon des Amateurs a Düsseldorf, membro della Comeme Record. L'unica sua pubblicazione risale al 2015, chissà se ne arriverà un'altra. Ai tempi suonammo un pezzo sempre di questo stesso disco che si chiama Phantom Delia, chissà se è un omaggio a Delia Derbyshire, una pioniera della musica elettronica, dei sintetizzatori negli anni 60 in Inghilterra. Questo pezzo invece si chiama Asphalt Cobalt, Lena Willikens. molte delle performance di questo festival sono delle esclusive italiane, come questa di Lena Villikens. Quindi il suo DJ set si caratterizza per una grande imprevedibilità che spazia tra la proto-techno più scura e la disco sintetizzata. È proprio anche bella da guardare. Ma non parliamo dal punto di vista estetico, anche se l'abito non fa il monaco, perché insomma a vederla sembra appunto una signorina bene, con gli occhiali, i capelli raccolti in un chignon. E anche lei fa radio, gestisce un programma radiofonico mensile che si chiama Sentimental Flashback, sempre per la radio dell'etichetta di cui fa parte, Radio Comeme. E questo pezzo abbastanza scuro è Asphalt Cobalt, d'altra parte dal titolo non ci si può aspettare qualcosa di diverso. Dopo il DJ set di Lena Villikens, che durerà un'ora, ci sarà l'ultimo DJ set ad opera di Faulty DL. Credo che l'ho già visto, forse Spring Attitude, si fa fatica a ricordare tutto. Americano di New York, Andrew Lastman. Incide per la Ninja Tune. Ha fatto 6 album dal 2009 e anche nel suo caso abbiamo scelto di ascoltare un pezzo dall'ultimo album vero e proprio del 2016, che si chiama Heaven is for Quitters, cioè il paradiso è per chi molla, per i rinunciatari, e si chiama Flashy Compromise. We'll be right back. che così sfuma Fleshy Compromise, ma abbiamo scoperto che ha pubblicato quest'anno un nuovo EP che si chiama Three Rooms, tre pezzi, ognuno che designa, che descrive una stanza di grandezza diversa, e questo è il primo pezzo dell'EP e si chiama Big Room. Come è molto grande la sala dove si esibirà questa specie di enorme piazza coperta dell'ex fabbrica Incet. Suono decisamente più sostenuto, ma per me non fastidioso. E finirà così la prima nottata della prima giornata del Today's Festival, che è giunta al quarto anno. E ricordiamo i nomi del 2015, iniziando appunto sempre con una programmazione di altissimo livello: Interpol, TV on the Radio, Verdena, Ryoji Ikeda, Murkoff, Loridi, Levante, Bianco, Clap Clap, Yakamoto Kotsuga, Godu Gong e Blank Mass, i nomi principali, almeno per noi. Poi nel 2016, MAT3, John Carpenter, Jesus and Mary Chain, Soulwalks, I Cani, Crystal Fighters, Local Natives, Calcutta, Elio Germano e Teoteardo, Io sono un cane, Motta, Niagara, Ivan Smag e The Hacker. E poi l'anno scorso, quando c'eravamo, PJ Harvey, Richard Ashcroft, Band of Horses, The Sheens, Perfume Genius, Mac DeMarco, Timber Timber, Giovanni Truppi, Gomma, Bert, Giorgio Poi, Popper o Popix, Andrea Laszlo De Simone, Terence Fixmer e Max Cooper, bellissimo. E finisce Big Room, tratto dal nuovo EP di Faulty DL, Three Rooms. Anche a livello musicale, insomma, c'è una fortissima tendenza nel promuovere e presentare quello che negli anni è stato considerato, insomma, la musica indie o il rock alternativo più tradizionale, però c'è anche una sezione, diciamo, notturna che presenta delle realtà di musica elettronica, che, come dico io sempre, non significa necessariamente musica da ballare, sempre di alto livello. Ricordo l'anno scorso Max Cooper, quest'anno c'è la collaborazione con l'etichetta Touch, con Philip Jack, Simon Scott, e poi appunto dei DJ non, magari non famosissimi, però di altissimo livello, come per esempio Lena Villikens. A volte le donne non sono molto conosciute, e mi chiedevo come viene fatta la selezione. Si guardano, cioè, proprio i desideri del cuore? Mi piacerebbe rivedere in Italia appunto Ike and the Bunnymen, appunto nomi storici per la nostra generazione, parlo appunto di me e te, oppure con le varie agenzie di booking si vede chi è in tour, oppure si fanno appunto delle richieste precise: voglio avere questo artista perché penso che questo artista dia senso all'evento che voglio creare. Ma sai, guarda, mi ricollego un po' alla prima domanda che mi hai fatto. In realtà l'Italia è quel paese dove passaggio tra il desiderare ciò che si vorrebbe e il fare ciò che si può non è proprio così, tra il dire e il fare, insomma, è piuttosto labile. Quindi, come dire, ci possono essere due tipi di risposte a questa tua domanda assai interessante. Una è quella che effettivamente dietro a quei tre giorni c'è un lavoro molto lungo e molto intenso, che dura l'intero anno. Noi iniziamo a pensare e a progettare, ideare il festival dell'anno successivo, quando ancora gli spettatori, come dire, sono a casa che ascoltano la playlist del festival che è appena terminato. Quindi c'è c'è un lavoro di ricerca nel capire, guardando soprattutto in un'ottica non autoreferenziale, cioè quello che succede dentro nel nostro ambito, ma anche guardando proprio quello che succede nei veri festival in Europa. Cioè in Italia chiamiamo festival cose che spesso non lo sono affatto. Quindi questo è un lavoro mosso dalla passione e che spesso porta i frutti, e spesso magari ci vuole tanto tempo. L'anno scorso PJ Harvey, piuttosto che quest'anno in mezzo di Valentine, sono state band volute e inseguite per un tempo piuttosto lungo. Corteggiati. La risposta meno romantica è che spesso in Italia poi alla fine ci si riduce a fare quello che ci si può A, permettere economicamente, B, che è disponibile in quel giorno e quel periodo, rispetto ai tour, magari passando da un festival importante in Francia dove quello stessa band ha 10 volte più pubblico fino all'est europeo. E sto nominando paesi che sono attivi all'Italia e nemmeno il nord Europa, che ha lunghe tradizioni di festival. Diciamo che l'idea di Todays è quella soprattutto di abbattere i confini che sono geografici, come ti dicevo prima, l'idea di periferia, ma anche culturali, quindi i confini di genere musicali. Per questo che insomma si cerca di accostare stelle internazionali, anche con esperienze pluriennali come i nomi di te, quindi Panman, piuttosto che Merda di Vante, gli Editors, fino a insomma, anche soprattutto guardando all'Italia, le speranze del futuro, quindi i giovani artisti, e anche a patente di genere. Guarda, proprio i War on Drugs sono l'esempio per me dell'abbattimento di confine tra la musica indie e la musica mainstream. Quindi una band, come dire, che suona del rock alternativo, che fino a qualche anno fa suonava in piccoli club, e che oggi vince il Grammy Award mondiale come miglior band rock, e quindi potrebbe essere definita mainstream in questo caso, ma con un'attitudine che è quella sana, cioè del, come dico in Inghilterra, il rock like it should be, cioè come dovrebbe essere in questo momento. Sì, che poi anche loro attingono poi ad una tradizione, che è poi quella della musica folk rock americana. Assolutamente, però fatto in maniera attuale, contemporanea, con un suono che è, ecco, non revival, quindi non fotocopia spiadita di qualcosa che già si è sentito, e nemmeno che anticipa troppo ciò che verrà, ma quindi per noi è proprio il presente, del, cioè del presente, del contemporaneo. Piuttosto che, come hai detto te, siamo fieri quest'anno di affidare la programmazione di una parte di un palco in particolare, che all'interno di un luogo che tra l'altro inaugurerà il prossimo anno, la Fondazione Plastin di Napoli, come dire, apre una seconda sede proprio del Museo Plart, dedicato all'innovazione e alle plastiche a Torino. E questo luogo che oggi è ancora cantiere, quindi anche qui contemporaneo, attuale, un today work in progress, ospiterà proprio questa programmazione realizzata dalla Touch, che è un'etichetta ormai 35ennale in inglese, dove ha nel proprio roster artisti, dal Vanoto a Christian Fennez e moltissimi altri, e che curerà proprio un evento ad hoc, realizzato una produzione, quindi non una semplice come dire, performance. E anche qui si mescono i generi, quindi insomma vediamo artisti come tu stessi nominato, da appunto Simon Scott, che suona gli Slow Dive, che magari in una veste diversa, mescolando suoni sperimentali soprattutto. Quindi non esiste più il pubblico del 2018 della guitar music, piuttosto che della computer music, folk, soul, psycho, pepper, insomma tutti i generi musicali. Per noi esiste buona musica o cattiva musica, ed esiste un pubblico che sceglie, e sceglie di andare a vedere un festival ancora prima del singolo artista. I più attenti tra voi avranno capito che era la seconda parte dell'intervista a Gianluca Gozzi. Non stavo guardando la playlist e quindi non l'ho annunciata. Abbiamo messo uno spezzone di intervista alla fine di ogni giornata, ed è per questo che adesso siamo idealmente alle 7 del pomeriggio invece del secondo giorno, che è sabato 25, con un artista torinese, cantautore Daniele Celona. Adesso ascoltiamo prima. Non volevo giocare d'azzardo, non volevo soltanto un enigma in più. E tu? Quanto invidio i tuoi cinque sensi, tutti interi. Quanto invidio i tuoi pensieri, così stupidi. Non peccare di modestia, non è semplice evasione, è il cliché di chi preoccupazione alcuna versa in dote, è la frode del destino. Catalunia ride, fa un inchino. sempre a fianco, come un padre non ti lascia attraversare se non hai la mano nella sua, lontano dalla mia, ma respiri. Daniele Celona, torinese con origine sarde e siciliane, un esordio con Fiori e Demoni nel 2012, portato in giro in tour condividendo il palco con Paolo Benvenu, Umberto Maria Giardini, Teatro degli Orrori. E poi nel 2015 è arrivato un altro album, Amantide Atlantide, che conteneva anche un duetto con Levante, questo invece è La Colpa. Siamo passati invece adesso a un siciliano doc che abbiamo ascoltato, di cui abbiamo parlato molto in una delle trasmissioni dedicate al Siren Festival, ovvero Cola Pesce. Lorenzo Urciullo da vicino Siracusa. Abbiamo detto l'altra volta che abbiamo scelto di non far ascoltare i due singoli e invece questa puntata sul Today's Festival ci dà l'occasione invece per ascoltarli uno dietro un altro, per Cola Pesce che in tour in tutto lo stivale passerà da Vasto e poi arriverà un mese dopo a Torino alle 19.30 allo spazio 211 sabato 25 agosto. Stiamo ascoltando Ti Attraverso e poi ci sarà Totale, il cui ritornello mi ha trapanato il cervello in questi ultimi giorni. Adesso vediamo se non vi rimane in testa il ritornello. Che questo qui molto pop, cantautorale, antico. Della nostra infanzia, vero Olivia? E arriviamo a uno dei nomi principali, in realtà non hanno mai smesso di suonare completamente, Echo and the Bunnymen. Riascoltare questi dischi mi ha fatto veramente tornare indietro nel tempo, l'emozione di appoggiare la puntina su un disco e di essere assolutamente overwhelmed, sopraffatto da suoni mai sentiti prima. Ed è per questo che ho scelto di mettere i pezzi che mi piacciono di più. In realtà mi piaceva di più in toto Crocodile del 1980. E vabbè, infatti iniziamo così con Rescue, Echo and the Bunnymen. Won't you come on down to my storica band nata nel 78 a Liverpool, guidata da sempre da Ian McCulloch, poi Will Sergeant, Les Parkinson e poi Pete De Freitas. Un'attività ininterrotta fino al 93, poi una pausa e solo tre anni dopo hanno ricominciato a suonare. E ricordiamo, Ian McCulloch aveva già iniziato a suonare insieme a Gillian Cope, che poi formò i Teardrop Explodes. E alcuni pezzi dei Teardrop Explodes erano stati scritti insieme. Poi invece Gillian Cope ha cacciato McCulloch dalla band. E ci abbiamo voluto aggiungere non il pezzo più famoso, Killing Moon, tratto da Ocean Rain dell'84, ma un altro che ci piaceva tanto e comunque tra i più famosi, ovvero Seven Seas. Sorry heart with your favorite finger, paint the whole world blue and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing good news they're bringing. Attualmente nella formazione sono rimasti solo originali, sono rimasti solo Ian McCulloch e Will Sergeant, anche perché poi Pete Freitas è morto nell'89, poi anche un altro membro aggiuntosi successivamente è morto, e attualmente non si sa chi suona con loro. Sicuramente ci sarà Ian McCulloch. Dicevo quanto mi piacesse Crocodiles, pezzi bellissimi anche come Villiers Terrace, la title track, eccetera. Anche appunto questo Ocean Rain con Killing Moon ha fatto la storia. Era musica alternativa, new wave, post-punk dei primi anni 80. Anche se io con The Bunnymen, questo primo disco era abbastanza scuro, hanno sempre mantenuto un po' una certa leggerezza. Anche aiutata da una grande passione per i suoni spagnoleggianti, quasi chitarre flamenche in molti pezzi. Burning my bridges and smashing my mirrors, turning to see if you're cowardly. Burning the witches with mother religious, you strike the matches and shower me. Taught and taken in time to your flow. Seven seas swimming them so well. Glad to see my face among them, kissing the tortoise. Quindi la presenza di Ico in The Bunnymen farà sì che l'età media a quel concerto quel giorno sarà abbastanza alta anche per la band che c'è dopo. In entrambi i casi esclusive italiane per quest'anno, My Bloody Valentine, insomma due gruppi che hanno segnato decenni diversi, ma My Bloody Valentine sono stati assolutamente una grandissima ondata di novità in quegli anni di passaggio. Qui c'erano My Bloody Valentine, c'erano i Ride, gli House of Love, i Last, i Slow Dive, i Telescopes. Io ho tutti questi vinili. Anche qui, sebbene Loveless sia considerato il capolavoro assoluto, noi in passato nelle varie trasmissioni abbiamo suonato diversi pezzi, sia da questo bellissimo Is An Anything, debutto dell'88, ma poi anche dall'ultimo grandissimo ritorno MBV qualche anno fa, dove li vedemmo anche lì a Primavera a Porto. Ma invece appunto anche qui la grandissima emozione nel sentire questi suoni strani di questo disco, e quindi ho scelto due pezzi: questo primo pezzo di apertura, Soft as Snow But Warm Inside, e un altro pezzo sempre di questo bellissimo disco che sarà Several Girls Galore. ed è stato incredibile vedere dal vivo la stamina di Colmo Ochosoig, il batterista, è un nome che ho memorizzato subito in quegli anni. Band irlandese nata a Dublino, poi non tanti anni dopo di Echo and the Bunnymen, ma ci hanno messo qualche anno in più ad uscire su disco. Kevin Shields, appunto Colmo Ochosoig, Billy the Butcher e Debbie Googe. E Belinda Butcher, anche autrice da sola di molti pezzi di questo disco, tra cui di questa Several Girls Galore. Quest'album di esordio, seguito poi all'inizio degli anni 90 da Loveless, poi si sono sciolti. Nel 97, per poi tornare, per anni si vociferava appunto di una reunion, di un nuovo disco, è arrivato nel 2013 MBD. E nella loro scheda su Wikipedia chiaramente c'è una sezione che si chiama Legacy, nel senso quanto hanno influenzato poi le band arrivate dopo. Qui si nomina Billy Corgan, Trent Reznor, Courtney Love, anche The Edge, U2. Rimanendo nello stesso album, è stato con sorpresa scoprire che uno dei nomi portati per la serata della etichetta Touch, di cui ci ha parlato prima anche Gianluca, è quello di Simon Scott, sound artist, polistrumentista nato a Cambridge e che, tra le altre cose, è il batterista degli Slowdive. Il suo lavoro esplora il processo creativo dell'ascolto attivo, le implicazioni della registrazione del mondo naturale usando la tecnologia e la manipolazione dei suoni naturali usati per la composizione musicale. E dal suo album Insomni del 2015 abbiamo sentito un breve pezzo Eternal di appunto suoni d'ambiente, seguito da questo pezzo dedicato alla chitarra che si chiama Nettle Bed, Simon Scott. Ricordiamo che l'evento organizzato da Touch Movements, Touch, si svolge dalle 19 a mezzanotte al Plartù e l'esibizione di Simon Scott sarà seguita da quella di Giuseppe Ielasi. E come per il giorno precedente, nella Galleria d'Arte Gagliardi Dom, che dalle 15 alle 18 ci sono vari incontri o presentazioni la comunicazione nella musica, Walkie Talkie, la realtà virtuale, Oculus Experience, The Road Not Taken, e contemporaneamente a Arca Studios, Suonare la Luce e Sound and Vision. Dopo la fine dei Bloody Valentine, nello spazio 2011, e in mezzo la parentesi Touch Movement, torniamo alla fabbrica Inchet, dove per il programma notturno ci saranno anche loro, un gruppo che abbiamo ascoltato in occasione di una delle puntate sul Siren Festival, ovvero i tedeschi Mouse on Mars, Jansen Werner e Andy Thoma. Abbiamo ascoltato l'altra volta due pezzi che vedevano la partecipazione del cantante dei Beirut, adesso non mi viene, Zach Condon. Adesso ascoltiamo dal nuovo Dimensional People un altro dei pezzi diviso in due o tre parti, Parliament of Alien Part 2. Che invece vede la partecipazione di Bryce Dessner, mi pare, Justin Vernon, eccetera, tutta gente un po' così. E voi non ci crederete, ma mi sono accorta poco fa di aver fatto una scaletta un po' lunga. Ho detto, vabbè, una ventina di pezzi, come sempre, più un'intervista, senza rendermi conto che in moltissimi casi ho scelto di mettere due pezzi di uno stesso artista. E siccome quando i pezzi vengono caricati nel player i numerini sono troppo piccoli, mi sono accorta solo adesso che questa trasmissione dura 2 ore e un quarto. Yeah! Mouse on Mars, definiti una delle band più importanti di tutti i tempi nel campo delle musiche digitali, che combinano techno, vorticose spezzettature breakbeat, richiami all'IDM stile Aphex Twin o all'electro più d'avanguardia a cavallo dagli anni 80 e 90, a cui aggiungono il loro tocco personale e il loro anche senso dell'umorismo. Lontani da ogni routine, da ogni scelta stilistica facile o che segue le mode del momento. Thank you. dopo I Mouse on Mars arriva quello che ho definito poi nell'ultima parte dell'intervista con Gianluca Gozzi un po' il local hero, che in questa tournée estenuante iniziata a gennaio non si ferma mai ma ha una stamina incredibile, ovvero Cosmo. Marco Bianchi torna un po' a casa, sì, lui è di Ivrea, però insomma a Torino che è cresciuto musicalmente eccetera. Abbiamo ascoltato l'altra volta tre pezzi dal ormai famosissimo Turbo, uscito all'inizio di quest'anno. Anzi no, che cosa dico, Turbo? Turbo è stato il primo singolone, Cosmotronic è l'album, quindi 11:30 Mouse on Mars, mezzanotte e mezza Cosmo live, e adesso abbiamo scelto questo pezzo Ho Vinto, che riporta sempre una delle basi, che rivela delle capacità da producer veramente veramente notevoli. Gran pezzo. Non ballo con te, tanto non capiresti, chissà cosa penseresti. Mi piace sfottere il linguaggio spinto, ho lottato contro me stesso, ho vinto. Come si fa a rimanere fermi con questo ritmo? Quasi quasi quando lo vedo dico, dai, una versione strumentale di questo pezzo. Magari lui si offende, visto che comunque i testi così autoreferenziali personali sono insomma un po' la sua cifra stilistica. Però musicalmente anche questo pezzo, soprattutto nel secondo album, perché praticamente sono due dischi, due parti, una appunto più cantautorale e una più elettronica, appunto soprattutto la seconda parte ha dei pezzi, come abbiamo sentito anche l'altra volta, Ivrea Bangkok, 5 antimeridiane, che veramente spaccano. Quando Cosmo avrà incendiato veramente i presenti col suo show travolgente, arrivano poi a tenere alto il ritmo il duo francese Acid Arab, formato da Guido Minsky e Hervé Carvalho. Sempre affascinati dalla musica tradizionale nordafricana e medio orientale, e hanno fatto appunto questo album nel 2016, che ovviamente racchiude tutti questi suoni e molto intelligentemente chiamato Musique de France, la musica francese, come la squadra di calcio francese che ha vinto i mondiali è formata da tutte appartenenti, discendenti francesi adesso, ma appunto discendenti da famiglie immigrate nei paesi, ahimè, sì, ex coloniali, e che hanno trasformato le città, hanno trasformato le banlieue e hanno trasformato la musica. Quindi è giusto che questa musica venga considerata Musique de France, e questo pezzo si chiama Le Disco, Acid Arab, che soprattutto in questo pezzo tengono fede al loro nome. Acid Arab per questo pezzo molto arabo e molto acido. Hanno suonato, abbiamo già visti, al Spring Attitude 2 anni fa, e probabilmente sempre in accoppiata con il duo che seguirà. Ormai immagino saranno migliori amici. Comunque, data unica italiana sia per Acid Arab, che suoneranno appunto alle 2 di notte all'ex fabbrica Inchet dopo il live di Cosmo, e alle 3 seguiranno gli israeliani di Tel Aviv Red Axis, quindi rimanendo in Medio Oriente. Due amici, macchine, psichedelia, pozioni e una passione incondizionata per la musica, il suono e il movimento, un'avventura iniziata nel 2010 negli scantinati di Amsterdam e le strade di Tel Aviv. All'inizio era una band post-punk, poi invece sono arrivati i Red Axis. come sempre capita per producer e DJ di musica elettronica, tanti gli EP e i singoli. Quindi appunto in occasione di Spring Attitude abbiamo suonato uno dei pezzi di un EP di qualche anno fa e anche loro hanno appena pubblicato un nuovo EP, tre pezzi, che si chiama Sipor, e stiamo appunto ascoltando il pezzo omonimo, Red Axis. Sadovnik e Niv Arzi, che sono conosciuti, hanno cominciato a fare musica insieme, a scrivere canzoni a 14 anni, e appunto 3 anni dopo hanno formato Red Cotton, una psychedelic rock band, quindi da una parte chiamano psychedelic rock, da una parte post-punk, un quartetto. Poi dal 2011 la produzione come Red Axis, appunto qui ad occhio sono tipo su una quindicina di EP o singoli. Noi avevamo messo Sun My Sweet Sun, credo del 2016, e anche loro, come sempre capita, tante tante etichette per cui pubblicare. Vediamo la Ivern Discs e la Permanent Vacation, quindi insomma etichette di o cui per cui è pubblicato anche John Talabot, Disco Halal, Correspondent e Life and Death, etichetta di DJ Tennis. I need techno, I need trance, בן זונה לפנים, את השיר הזה ינגנו בכל המועדונים, זדיינו! E c'è questo piccolo intermezzo vocale in ebraico. Dicevamo Sipor, nuovo EP uscito meno di un mese fa, per la fantasy invece di Erol Alkan, per cui incidono sia Daniel Avery che Ghost Culture. E saranno loro a finire le danze alle 4 di notte. L'ex fabbrica Inchet, ma adesso che lo so, ve lo dico, arriva la terza ed ultima parte dell'intervista con Gianluca Gozzi, direttore artistico del Tau Days Festival. Nel programma si vede anche una forte presenza di realtà italiane emergenti oppure rapidamente affermatesi, penso a Mischeta o a Cosmo, insomma un po' di eroe locale che appunto produce un'esperienza molto più ampia, che può far usufruire alle persone insomma di musica che magari normalmente non conoscono, non seguirebbero, e che invece si trovano in una programmazione molto ampia e varia che copre uno spettro molto ampio. Sì, anche in questo caso l'idea è quella di far sì che le persone tornino a casa in qualche maniera dicendo non wow è stato esattamente come me l'aspettavo, ma come è stato come non me l'aspettavo, quindi lasciarsi stupire, osare. E per me questo vuol dire in qualche maniera presentare musiche anche non necessariamente rassicuranti, non quello che già conosciamo, anche nell'ambito soprattutto degli artisti italiani, come dire, anziché inseguire un po' le mode, cercare di anticipare il trend, e quindi presentare gli artisti che più ci convincono e che in qualche maniera nel cartellone generale, perché l'attenzione è sempre che sia come dire, l'idea di festival generale ancora più che l'artista singolo ad attrarre il pubblico. Questa è la ragione per la quale ci piace mescolare, come hai detto te, stelle nascenti o già affermate a livello locale italiano con grandi nomi internazionali, e anche un po' cercando di osare, anche abbattendo proprio i generi. Ricordo che la prima edizione facemmo questo accostamento con gli Interpol e salì sul palco appunto una giovanissima Levante, anche in parte spaventata da come avrebbe potuto il pubblico accoglierla. In realtà tutto questo non è successo, anzi il pubblico degli Interpol rimase curioso e anche appassionato della sua forza dirompente, scoprendo una nuova artista, e così accade viceversa. Quindi l'idea di Today's è comunque una fotografia schietta, sincera, dinamica, ma in movimento del presente, che è quello che è, quindi non necessariamente quello che già ci piace, che conosciamo, ma quello che abbiamo voglia e scegliamo di parteciparvi da protagonisti in questo caso. Infatti questo esempio che hai portato tu mi ricorda quello che è successo l'anno scorso, nella serata in cui suonò per Film Genius, la maggior parte della gente era lì in attesa di Richard Ashcroft e si trovava, io ero lì in prima fila, ero circondata da tutti i fan dei Verve e Richard Ashcroft, e trovatisi davanti una sorpresa, perché comunque per noi può essere molto conosciuto, però per quel pubblico è un nome veramente marginale, non conosciuto. Sono rimasti veramente sorpresi ed affascinati, mi hanno chiesto, poi io parlavo insomma della sua storia, dei suoi precedenti, insomma dei suoi lavori, che appunto non era un artista nuovo ma già affermato in una certa scena più di nicchia, e sono rimasti veramente colpiti, e in quel caso sono rimasti toccati e sono tornati a casa appunto con questa nuova esperienza, che era sicuramente molto di più e altro di quello che già sapevano di potersi aspettare dall'artista che erano venuti a vedere. Sì, questo mi fa molto piacere che tu lo racconti, è quello che noi proviamo a far capitare. Magari quest'anno capiterà, che so io, la domenica con Ariel Pink poco prima degli Editors, piuttosto che il venerdì con quei pazzi furiosi dei King Gizzard, The Wizard, prima dei War of Drugs l'anno scorso, appunto per Film Genius, piuttosto che i Timbertimbre o altre band. Insomma, farsi incuriosire da quello che non conosciamo ancora è proprio lo scopo di un festival: vivere emozioni nuove, diverse, abbattere i generi musicali, e altrimenti diventa un qualche cosa, come dire, preconfezionato. Quindi è proprio questa la ragione per la quale uno dovrebbe, come dire, scegliere di andare a un festival piuttosto che andare a vedere un film o leggere un libro, lasciarsi incuriosire e osare verso quello che già appunto non conosciamo e non risuona nelle nostre orecchie, nella quotidianità. Bene Gianluca, ci hai detto delle cose molto interessanti. Ricordiamo Today's Festival 24, 25, 26 agosto, e sicuramente ci troveremo tutti in prima fila sotto cassa. Beh, noi vi aspettiamo, i palchi sono tanti, consigliamo di acquistare insomma i biglietti, che per fortuna stanno, come si suol dire in gergo, volando, quindi sul sito todayspecial.com tutte le informazioni, e speriamo siano 3 giorni intensi, come detto, ci portiamo poi a casa anche per tutto il resto dell'anno. Ecco, non mi ero accorta che si sente il mio respiro che ansimo come un orco. Ma siamo passati alla programmazione domenica pomeriggio, che l'anno scorso alle 4 vide una festa in piscina assolutamente pazzesca, fuori di testa, con i Popper. Invece quest'anno siamo al Parco Peccei Open Air, alla cattedrale, veramente una cattedrale industriale, una struttura di cemento armato all'interno di questo parco molto molto bello. E alle 16 ci sarà Mischeta, anche lei l'abbiamo ascoltata per Siren, mente una pazza, e stiamo ascoltando dal suo ultimo disco di quest'anno, Una vita in caps lock, come tutti i suoi titoli, come il suo nome. Ascoltiamo Una donna che conta. 1, 2, 1, 2, una donna che conta, una bionda che Fabrizio. Ah no, Antonio. No, scusa, perso un attimo il conto, stoppala. Rewind. E poi c'era Antonio. Un tipo coi ricci. Aveva sempre uno striscio. Se facevo i capricci. Si chiamava Lele. Mi ha detto, sarai una star. 1995. Vinco il Festival Bar. Sì. Non sono una santa. Ma erano altri tempi. Gli anni 90. Di vodka nel cuore. Ne ho versato tanta. La vita oggi è dura. Per una donna che conta. Una donna che uno, due. Una donna che conta. Una bionda che tre, quattro. Una bionda che abbonda. Una donna che uno, due. Una donna che conta. Una bionda che tre, quattro. Una bionda che abbonda. Anni 2000, dico, è quello giusto. Si chiamava Wojtyla. Aveva il corpo di Cristo. E poi c'era Lorenzo, un musicista. Non abbiamo mai scopato. Lui mi scopava in pista. Poi è arrivata Belan. Voleva fare successo. Siamo solo io e te, dice. E anche un casting director. C'era uno Stefano. Faceva il designer. Ma il suo amico Domenico era un po' troppo in mezzo alle palle. Sì, non sono una santa. In mezzo alle palle, per dire in mezzo alle palle, non ha fatto la rima baciata come in tutti gli altri casi. Mischeta, abbiamo detto, ci sta molto simpatica, l'abbiamo vista già due volte, la vedremo anche a Siren. E immagino che nel contesto del Parco Peccei farà veramente fuochi d'artificio con le sue ballerine e ballerini. Pezzi ormai storici come Milano Sushi e Coca, In gabbia non ci vado, per arrivare al grande successo, il pezzo prodotto da Populus, Xananas. Qualcosina di più. Miguel, Donald, Silvio, Amanda, Antonio, Lele, Donatello, ci vedo, Ezio, Enzino, Caro, Lorenzo, Belen, Stefano, anche tu, Miuccio, so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, Beck, prima o poi ci rivecchiamo, ragazza. Brunda, Emilia, Magda, Roberto. Vi devo ancora 40 euro, fratello, quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente. Mio malgrado, l'infinito, mi tormenta. Vabbò, ciao, va? E avrete riconosciuto, insomma, a chi si faceva riferimento, nomi famosi della scena dell'entertainment italiano nel corso di tre decenni. Ma dopo appunto la performance al Parco Peccei, torniamo allo spazio 211 domenica 26 agosto, dove alle 19 si apre con un giovanissimo cantautore, Luca Galizia, in arte Generic Animal, classe 95, tra Milano e il nord della Lombardia. Adesso ci ascoltiamo uno dei pezzi del suo album omonimo di quest'anno, Tre Nord, seguito da un altro pezzo, sempre dello stesso disco, Hinterland. Abito al quarto piano, ci vuole una fionda, ci vuole coraggio. Abito al quarto piano, ci vuole una fionda, ci vuole coraggio. Pezzo dedicato a Tre Nord, perché insomma, vivendo a Varese, sicuramente usa tantissimo i treni della compagnia che copre la Lombardia. Suona la chitarra dal 2014 con la band Loite, e questo invece, questo progetto Generic Animal, si canta in italiano. Come mi hai provato, che bello pensare quando non l'hai scritta. Lasciami come mi hai trovato. È stato incoraggiato da Jacopo Lietti dei Fine Before You Came a fare dei suoi pezzi da solo in italiano. Sono piaciuti molto Enrico Molteni di Tre Allegri Ragazzi Morti ed è nato questo disco senza rime e tutto suonato con la chitarra classica di mia mamma, dice. Tutte le illustrazioni che accompagnano nel disco sono mie. Generic Animal è il nome che avevo dato al disegno di un animale appartenente a una specie inesistente. Avrebbe senso se quel disegno fosse la copertina di questo disco, ma di fatto quel disegno non mi piace più. E infatti tutte le varie tracce presenti su Spotify sono corredate da un disegnino sempre di un animale diverso. E adesso arriva un altro pezzo sempre tratto da questo disco, si tratta di Hinterland. Ricordiamo che anche nella giornata di domenica 26, sempre alla Galleria d'Arte Gagliarde Dom che è Iarca Studios, ci sono i consueti appuntamenti della sezione ToLab, ma potete trovare appunto tutti i dettagli sul sito Today's Festival. Finisce Generic Animal e passiamo a un'altra artista della scena pop indie italiana, ovvero Maria Antonietta. Questo inizio di questo pezzo molto bene in Sebastian. Adesso tutto quello che ho fatto, che ho detto, che ha tenuto nascosto. Maria Antonietta, nata a Pesaro nell'87, ma vediamo che è di Sinigaglia, provincia di Ancona, nome d'arte di Letizia Cesarini, che comunque anche nome per una cantante era pure bello. Molto fresco e leggero per questa cantautrice, innamorata del regno animale e vegetale, appassionata di studi di genere, di arte medievale, di poesia e teologia. Esordisce col primo disco autoprodotto nel 2010, Marie Antoinette Wants to Suck Your Young Blood. E poi insieme a Dario Brunori nel 2012 confeziona l'esordio omonimo in italiano. È anche scrittrice, Santa Caterina al Sinai, un racconto pubblicato da Minimum Fax nell'antologia Cosa volete sentire, e poi tanta tanta attività live. E poi il secondo album nel 2014 per la Tempesta Dischi, Sassi. Poi nel frattempo scrive la tesi, si laurea in storia dell'arte, una tesi dedicata alle pratiche sommerse della creatività femminile, e poi fa anche dei reading dedicati alle sue poetesse preferite, Dickinson, Platt, Kvetaeva, Campo. Ma i pezzi che stiamo ascoltando sono del nuovo album del 2018 che si chiama Deluderti, uscito ancora per Tempesta Dischi. Ho avuto difficoltà a scegliere i pezzi perché me ne piacevano tanti. Prima abbiamo ascoltato Cara Ombra e adesso stiamo ascoltando invece Pesci. Bella anche la title track Deluderti o Vergine. Spesso ho notato che i pezzi hanno una percussione tutum ta alla Jesus and Mary Chain, e io non l'ho mai ascoltata molto, forse l'ho vista una volta dal vivo, ma non per snobismo, non lo so, perché anche musica italiana alternativa non conosco tanto come dovrei, ma grazie appunto a queste rassegne, a questi festival, posso scoprire e ascoltare bene, come è successo anche con Cola Pesce, come ho dichiarato nella trasmissione scorsa. Ma questa appunto è Maria Antonietta. Abbiamo sfumato questa Pesci di Maria Antonietta per fare spazio agli ultimi due pezzi di questa lunghissimissima scaletta, ma tanta tanta bella musica. E come diceva, chissà se la gente sarà un po' stranita, tutte le persone che saranno lì, soprattutto quel giorno per gli editors, prevedibilmente, a trovarsi questa creatura veramente strana, molto queer in tutti i sensi, ovvero Ariel Marcus Rosenberg, in arte Ariel Pink. Los Angelino, fresco, quarantenne. Ha iniziato a produrre i suoi pezzi da adolescente. Le prime influenze sono state quelle di Michael Jackson e Cure. Direi che si sentono ancora entrambe. Pur avendo pubblicato, autoprodotto un album nel 2000, solo 10 anni dopo, con Before Today, si fa notare, quando ancora usava il nome Ariel Pink's Haunted Graffiti. Ancora più successo poi ottenuto da Pom Pom nel 2014, e poi nel 2017 è uscito Dedicated to Bobby Jameson, da cui stiamo ascoltando uno dei singoli, Feels Like Heaven. Anche questa qui appunto una citazione, un omaggio insomma un po' obliquo ai Cure. Suono che è stato definito hypnagogic pop, poi sono nate tutte le varie etichette, chill wave, vapor wave. C'è sempre questo suono lo-fi e questo suono retro, proprio dan nostalgico. Pezzo, non casualmente, quasi un plagio di Light My Fire, come sentirete meglio in seguito, era title track dedicated to Bobby Jameson, che è un cantautore americano che era stato promosso, lanciato con tantissima pubblicità dicendo questa sarà la prossima star. Invece poi la sua carriera è stata molto deludente, lui molto disilluso dall'industria musicale, quindi poi seguito alcolismo e anche attività criminale, quindi questo omaggio di Ariel Pink a questo eroe misconosciuto della musica pop degli anni 70, anzi 60-70. Sì. appunto questo qui, abbiamo sfumato questa coda strumentale di questo pezzo, molto appunto Light My Fire. Io l'ho visto a Locomotive, tra l'altro una serata Genital Panic, dove dopo credo ho suonato per DJ set, ma siamo arrivati all'ultima band che chiude il programma di questo festival ricchissimo, Today's Festival, 24, 25, 26 agosto, con gli Editors, band che noi abbiamo amato tantissimissimissimissimissimo al loro esordio, guidata da Tom Smith, da Birmingham, formatisi nel 2002, con un esordio che ci ha veramente sconvolto. The Backroom nel 2005, insomma, dopo che nel 2002 gli Interpol avevano rispolverato, insomma, la new wave e il post-punk, sono arrivati gli Editors, e poi in quello stesso periodo nella scena inglese tutte band che noi abbiamo amato tanto e abbiamo visto negli anni gloriosi, in cui andavamo sempre al Festival Benicassim, anche se di genere diverso, però venivano spesso accomunati, come Maximo Park o quei Mattarelli Hooligan dei Kaiser Chiefs. Io direi che me li sono un po' persi dopo il terzo disco, dopo il 2007 An End as a Start, e poi nel 2009 In This Light and On This Evening, diciamo gli ultimi due dischi, poi in mezzo me li sono persi, ma l'ho riscoperti con questo nuovo singolo che è stato il primo di Violence del 2018, Magazine. Ho fatto una versione personalmente editata di Magazine, a cui adesso ho attaccato il secondo singolo tratto da quest'album. Si tratta di Hallelujah Solo, Editors. Questo passaggio molto Radiohead, poi questa chitarra fuzz che mi ricordo tantissimo Mixomatosis, tratto da Hail to the Thief, il mio disco preferito di Radiohead. Altri pezzi che ho trovato belli del disco sono Nothingness, che potrebbe essere cantato da Florence and the Machine, ma che ricordano anche i Manic Street Preachers, e poi anche The Poles. Ho scritto è bella, ma poi arriva lo ho ho ho ho, il coro alla Coldplay, e anche questo motivo per cui l'ho un po' trascurati, perché appunto mi sembrava che insieme ad un grande successo mainstream arrivasse un po' quella deriva che hanno avuto sia i Muse che i Coldplay, ma fortunatamente no, per questo disco, che anzi appunto, non so gli ultimi due, ma in questo disco si sentono anche molti elementi elettronici anche. e finisce Alleluia solo degli Editors. Abbiamo detto praticamente tutto quello che potevamo dire sul Today's Festival 24, 25, 26 agosto. Troverete tutte le informazioni, che vorrete prendere i biglietti, ha detto Gianluca Gozzi. Essendo appunto la fine serata, non c'è l'attività notturna, ma sicuramente torneremo a casa belli, soddisfatti. Ciao da Claudia Maitimau.